con Flavia Rossi per presentare il finissaggio della sua mostra fotografica Nuovo Patrimonio, dalla calamità all'estetica del provvisorio, a Roma al Centro Studi Giorgio Muratore, sabato 1º giugno 2019. Flavia, ben trovata. Grazie, grazie mille, ciao, Mi grazie. racconti di questo lavoro? Sì, allora, il progetto Nuovo Patrimonio nasce da un'idea dell'architetto Giulio Luccioni, che appunto insieme a me abbiamo iniziato a percorrere dall'anno scorso le aree del centro Italia colpite dal sisma del 2016. L'obiettivo che ci siamo preposti è comunque di indurre una riflessione, quindi innanzitutto di aprire un'indagine senza per forza voler dare delle risposte immediate sulla condizione dei monumenti dopo l'evento calamitoso, cercando di capire come l'intervento delle opere provvisionali ne cambi la struttura, l'aspetto e soprattutto il rapporto con la collettività è una cosa che ci interessa molto. Inoltre, c'è anche un tema che riguarda il termine provvisorietà, cioè ci chiediamo effettivamente quando terminerà la provvisorietà e che cosa stabilisce il limite tra provvisorio e permanente. Per esempio, con le strutture stesse, effettivamente nate le opere provvisionali come qualcosa di diciamo temporaneo, poi effettivamente invece si ritrovano ad essere, come sappiamo anche da precedenti episodi di calamità naturali o catastrofi che ci sono state sul nostro territorio, poi sono in realtà diventate effettivamente permanenti. I ritratti riguardano patrimonio artistico e architettonico del centro Italia colpito dal sisma? Sì, sono degli edifici, diciamo, di interesse culturale, quindi principalmente chiese, ma anche edifici storici, di cui abbiamo analizzato il loro rapporto appunto con l'intorno e anche con la collettività. Inoltre c'è anche una parte del lavoro molto interessante a mio riguardo che si occupa invece di fotografare gli spazi del deposito di Santo Chiodo che si trova a Spoleto e che raccoglie le opere che vengono poi diciamo, portate via da questi edifici storici o chiese, ed è una convenzione che è nata tra Umbria e Abruzzo a seguito del terremoto di Assisi, per cui queste opere vengono portate lì e restaurate e poi appunto bisogna capire come funziona il processo anche temporale, diciamo se viene restaurato il bene che lo conteneva o meno, in quanto tempo viene restaurata l'opera. Quanti sono gli scatti esposti? Sono 11 e poi abbiamo una trentina di scatti proiettati invece, che sono quelli del deposito, per cui la mostra si articola all'interno del centro studi, che è questo spazio sorto da un paio d'anni a Via Tevere, che ospita l'archivio, ci troviamo all'interno dello studio del professor Giorgio Muratore. Le fotografie sono quindi ospitate dalle librerie, molto, appunto con questi volumi molto importanti. Ci sono queste immagini, sono 11 e poi abbiamo invece gli scatti di Santo Chiodo che sono proiettati invece nella sala più grande del centro studi. Avendo fatto questo sopralluogo, di che entità sono i danni al patrimonio, secondo il tuo punto di vista? Diciamo in alcune zone ovviamente sono più ingenti, ovviamente parlo della zona più o meno che è stata poi quella dell'epicentro del sisma, però ovviamente anche altri territori hanno risentito perché comunque spesso dipende effettivamente da come poi il terremoto si è mosso e quali edifici ha colpito, in quali condizioni si trovavano. Oggettivamente quello che riscontriamo è che molto spesso l'edificio a cui poi vengono apposte queste opere provvisionali è anche chiuso, e per cui poi si rischia di non avere la possibilità di accedere al bene che, come sappiamo, per questi centri che sono soprattutto magari piccoli paesi, posti di provincia, in cui magari effettivamente la chiesa o il bene storico rappresentavano effettivamente un centro, un luogo di importanza a livello anche di ritrovo, a livello di comunità, ovviamente trovarlo chiuso implica un cambiamento delle abitudini oppure un adattamento. Per esempio, ci siamo trovati la notte di San Lorenzo a Norcia quest'estate. E davanti alla chiesa di San Lorenzo, in cui normalmente veniva presa la statua del santo e portata in processione per Norcia, sono 2 anni che i cittadini o chi insomma comunque ha piacere si ritrova davanti alla chiesa e si fa questa cena sociale, si sta comunque insieme. Quindi in questo caso è stata mantenuta una tradizione e anche un attaccamento effettivamente al luogo, ma purtroppo si è dovuto cambiare modalità di partecipazione. Rispetto al concetto di provvisorio, in alcuni centri, soprattutto le frazioni più piccole, non si sta verificando il rischio proprio della scomparsa della comunità, al di là dei beni e danneggiati? Certo, ci sono forti problemi di spopolamento, soprattutto in seguito al fatto che molti piccoli centri hanno ancora le zone rosse, per cui ovviamente è anche impossibile, pur volendo, rimanere sul luogo. Che sarà di questa mostra dopo questo appuntamento? Proseguirà il suo percorso? Dunque, il lavoro è in corso, per cui appunto tra qualche mese con l'architetto Giulio Luccioni continueremo insomma a girare per questi territori, abbiamo delle idee per continuare a sviluppare questo progetto, per cui insomma l'idea è comunque ovviamente diciamo è molto spesso succede così, insomma io sono una fotografa e la penso in questo modo che comunque i progetti sono sempre dei progetti molto lunghi che non sempre si riescono a vedere una fine e in questo caso a maggior ragione che comunque è un discorso anche effettivamente, mi sento di dire anche politico. Sento una responsabilità anche nel documentare una situazione di questo tipo, quindi spero che possa proseguire il più a lungo possibile. Inoltre, con questo confronto con l'architetto Luccioni, indubbiamente è un arricchimento perché appunto lui si occupa della parte testuale, anche teorica, e inoltre ovviamente concorda con me la scelta, come è stata quella di andare a fotografare il deposito di Santo Chiodo, che è stata una decisione successiva, per cui piano piano si vanno a sommare diverse azioni. Esiste un catalogo? No, non è stato ancora effettuato. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora potete seguire la pagina Facebook del Centro Studi oppure il sito internet del Centro Studi che si trova sotto l'indirizzo archiwatch.it, altrimenti tramite il mio sito flaviarossi.it oppure mi potete trovare su Instagram come fro.si. Con due S o Flavio Rossi su Facebook. Quindi via Tevere 20, domani dalle 16 alle 20. Volevo fare un piccolo ringraziamento quindi al Centro Studi che ha reso possibile lo svolgimento di questa mostra e anche alla mia squadra, il curatore Niccolò Fano che ha la Galleria Materia a Roma, via Tiburtina, agli architetti che sono occupati del progetto di allestimento, lo studio Warehouse of Architecture and Research, Laura Savina che ha realizzato per me il progetto grafico, le stampe di Davide Di Gianni e le cornici di Rosini. Allora, ricordiamo il finissaggio della mostra Nuovo Patrimonio, dalla calamità all'estetica del provvisorio, a Roma, al Centro Studi Giorgio Muratore, sabato 1º giugno 2019. Flavia, un'ultima curiosità, questo titolo, Nuovo Patrimonio? Sì, allora riguarda proprio appunto il concetto di non smettere di considerare questo il patrimonio storico-culturale che appunto abbiamo nel centro Italia, colpito dal sisma, adesso ha semplicemente una nuova forma e bisogna capire effettivamente come organizzarlo di nuovo, come renderlo fruibile di nuovo e cosa succederà. Però ecco, mi interessa molto continuare a chiamarlo patrimonio. Un saluto e un ringraziamento alla fotografa Flavia Rossi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, risentirci presto. Grazie, crepi il lupo, grazie.